Ehi, hey, visitatore! Sì, diciamo proprio a te. Che ci fai qui? Ti sei perso? Non avevi nulla da fare? Oppure... Sei venuto qui per un motivo. Beh, se quel motivo è che sei uno studente. Hai dei problemi con la storia dell'arte. E domani hai l'interrogazione. O il compito. Domande a sorpresa che non puoi sapere di avere. Ecco, hai studiato magari, ma... Non sei sicuro di alcune cose. Ma non hai per niente voglia di aprire quel dannato libro. Che noia! Ecco, sei nel posto posto giusto! giusto! Sì, perché qui potrei trovare... Quello che stavi cercando! Grazie a Flipkart potrei imparare facendoti qualche Ma risata. cosa dici? Moltissime risate! Sì. E poi in mia compagnia. In nostra compagnia. Sì, di Gustavo. Elia. Ti basta soltanto cercare l'argomento scorrendo giù per questa pagina. Apri la mente. Volume al massimo. E un energico clic sul pulsante play. Allora? Cosa stai aspettando? Entra nel mondo di Clickart, dove l'arte è a portata di click!